strade avrei percorso in follia, e quali bivi non percorrerò più, su quali mari ho già lasciato la scia, quali porti io non rivedrò più. Si può cambiare il tempo e piacimento, andar via, parole vuote, quei silenzi tra noi, fra tante voci non è stata la mia, a dargli un senso, a dirti cose che vuoi. Oh no no no no, da da da da da. Chi sono e perché, yeah, yeah. Oh, no, no, no, da, da, da, da. Dove sono e chi c'è, yeah, fragile